L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta anche oggi con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, l'Europa che cresce, l'Europa che cambia, quelle che sono le opportunità, le possibilità di questa Europa. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio europee, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa e come sempre le coordinate virtuali per trovarci anche in rete euronetplus.eu, il portale radio24.it, il nostro sito, oppure chiocciola euronetplusr24 o il mio account chiocciola Federico Taddia per trovarci su Facebook e su Twitter, le nostre bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi si parte da Montesole. Si chiamano European Youth Weeks, sono campi internazionali basati su attività di cooperazione, attività di discussione. Quest'anno la tematica scelta è l'influenza dell'Europa su di me, il mio impatto sull'Europa. Tutto questo sta avvenendo a Heppenheim, siamo in Germania e lì ci sono anche i ragazzi della scuola di pace di Montesole che già abbiamo conosciuto qui all'Altra Europa, e ci colleghiamo direttamente con il campo per raccontare quello che sta succedendo. Con noi Stefano Merzi, responsabile della scuola di pace di Montesole. Ciao Stefano. Ciao. Ciao, buongiorno, ben trovato. E poi c'è Marta Cappiello, che è una delle partecipanti al campo. Ciao Marta. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora Stefano, a te il compito, se ci puoi contestualizzare il tutto. Sì, allora, la Fondazione Scuola di Pace organizza diverse attività che lavorano usando i sistemi dell'educazione non formale. Sì. E quindi appunto workshop, e quindi possono essere degli incontri, possono essere delle discussioni che si fanno insieme. In questo caso il campo che stiamo facendo adesso qui a Heppenheim è in cooperazione con la House am Maiberg, che è un altro ente di educazione non formale ed è uno dei partner più antichi della Scuola di Pace. E è un partner storico perché il Land Hessen, quindi quello dove c'è Heppenheim, dove si trovano Francoforte, è sì, una delle regioni partner dell'Emilia-Romagna. Uh-huh. E questo progetto in particolare è molto antico, nel senso che ha compiuto l'anno scorso 20 anni, abbiamo celebrato il 20° anniversario, quindi è cominciato nel 1993, dove appunto l'Europa era molto diversa da come è oggi. E quindi di conseguenza è cambiato molto. Quello che è rimasto è l'idea di discutere insieme di qual è l'idea di Europa e di Unione Europea, portando appunto persone da diversi paesi che vivono insieme per 2 settimane e quindi hanno la possibilità di confrontarsi su diversi temi. Mm-hmm. Sono 40 partecipanti che vengono da 10 paesi: Bulgaria, Croazia, sì, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Spagna. La lingua usata ovviamente è l'inglese. E poi appunto c'è questa metodologia che tu hai definito di educazione, apprendimento non informale. Marta, tu cosa ci fai lì? Cosa ti ha spinto a partecipare a questo campo? La tua prima esperienza? Sì, io ho fatto altre esperienze di educazione non formale, ma non di questo tipo, e soprattutto non in lingua inglese, con altri ragazzi di tutta Europa, non italiani. Uh-huh. Quindi ho altre esperienze simili, ma in Italia. E come mai hai scelto di partecipare a questo campo? Beh, mi è stato proposto da Stefano e io ho accettato, cioè prima ho guardato un attimino di cosa si trattava, poi ho pensato che poteva essere un'opportunità appunto per conoscere altri ragazzi più o meno della mia età di tutta Europa, confrontarmi con con le loro culture, che sono diverse dalla mia, ma non per questo meno importanti. E infatti mi sta piacendo molto, perché sto scoprendo un sacco di cose che non conoscevo praticamente. In questa prima settimana cosa avete fatto? Quali sono state le attività principali? La prima settimana abbiamo parlato soprattutto di tematiche relative all'Europa. Abbiamo visitato il Parlamento europeo a Strasburgo. Ah sì, com'è andata? È stato molto interessante. Abbiamo visto un pochettino come, cioè, un po' si hanno illustrato, ci hanno spiegato come è strutturato il Parlamento. E poi abbiamo fatto anche una simulazione, però non a Strasburgo, qua qui a Appenheim. Una simulazione come se fossimo nel Parlamento europeo per decidere se uno Stato poteva entrare nell'Unione europea o meno. Mm-hmm. Ed è stata una cosa molto, molto divertente e strana, perché facciamo finta di essere dei parlamentari europei e sì, con tutte le regole la procedura che viene utilizzata. Certo. Stefano, l'Europa, l'influenza dell'Europa su di me, questo è il titolo. Come mai avete scelto di appunto questo tema, questa sorta di simulazione? Come mai in una scuola di pace avete messo l'Europa nella sua quotidianità al centro? Beh, perché nella concezione nostra della scuola di pace, lavorare per la pace non vuole dire evitare le guerre, ma vuole dire ragionare insieme sul conflitto e gestire il conflitto in maniera che diventi non violento. Anche dagli scambi che abbiamo qua fra i ragazzi esistono comunicazioni violente, esistono immagini violente all'interno dell'Unione Europea e fra i cittadini dell'Unione Europea stessa. Per fare esempi banali, ieri durante un'attività, quando a un partecipante francese hanno chiesto qual è il problema che vede per la Francia, e stavamo parlando soprattutto dei giovani, lui ha detto il problema più grande della Francia è la Germania. E quindi sono seguite reazioni dei tedeschi e c'è una mancanza a volte di comunicazione. Certo. Su certe cose, per cui molti dei partecipanti tedeschi si sono sorpresi di essere visti comunque come quasi dei neocolonizzatori da alcuni degli altri partecipanti, che avevano invece delle idee ben precise, che si sono portati da casa ovviamente, non che hanno sviluppato qui, ma che comportano un'idea di Europa dove il potere non è distribuito in maniera giusta, secondo loro. Certo. Marta, hai già trovato la tua risposta alla domanda quale influenza ha l'Europa su di me? No. Nel senso che, no, vabbè, c'è ancora tutta una settimana, sicuramente l'Europa mi influenza, perché col fatto che c'è tutta una politica europea che io conoscevo, perché io ho votato le elezioni, la seconda volta mi sembra che ho votato già per le elezioni europee, quindi mi sono informata di tutto, però ne ho sempre sentito parlare, mi sono sempre informata come se fosse una cosa molto lontano da me, e invece alla fin fine sto vedendo che, cioè, l'Europa mi influenza tutti i giorni su qualsiasi cosa che faccio, sul mio lavoro, sui miei studi, su anche semplicemente le mie amicizie. E quindi sto sviluppando un'altra idea di Europa in questo campo. Montesole.org è il sito per conoscere tutte le informazioni. Stefano Merzi, grazie davvero per il vostro racconto e insomma buon lavoro. Avete ancora una decina di giorni di attività, quindi c'è ancora tanta strada da fare. Ciao Marta, grazie. Ciao, grazie. Buon campo. Adesso ci fermiamo in Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Buon compleanno, Spaventapasseri, servizio volontario europeo in Spagna. Volete fare un'esperienza di volontariato per 3 settimane a settembre in Spagna, lavorando con molti altri volontari da tutta Europa e con i bambini? Perché non partecipate allo SVE, organizzato per reclutare volontari per organizzare una grande festa per i 10 anni dell'organizzazione spagnola, che ha proprio uno spaventapasseri come simbolo? Happy Birthday Charming Crow è proprio il titolo dello SVE, e chi partecipa avrà vitto, alloggio e pocket money pagati. I volontari presenti sono tanti e al momento l'organizzazione è in cerca di un volontario maschio perché le ragazze che partecipano sono già tante. Trovate informazioni per la candidatura su scambieuropei.com, ma fate in fretta, avete tempo fino al 4 agosto. L'altra Europa. Come back, place where you lost that from. I see my old friends trying to have a little fun. Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice? Going back to the way that it once used to be. Have a couple drinks and one day in this league, just like old times. Yeah, just like old times. Subito, lunedì 28 luglio al Maxi di Roma, c'è stata la presentazione del programma Torno Subito, programma finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e promosso dalla Regione Lazio, un progetto destinato a studenti universitari o laureati inoccupati o disoccupati. L'idea è quella di favorire la mobilità, però con accezioni particolari, modalità anche innovative. Di questo ne parliamo con Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio e assessore alla formazione, scuola, università e ricerca. Buongiorno Massimiliano, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi. Un link diretto tra Bruxelles e la Regione Lazio, con la mobilità al centro come opportunità data ai giovani. E torno subito, è un po' una risposta al concetto di cervelli in fuga? Beh, noi ci proviamo, sappiamo che è una goccia in un mare, però il concetto è quello, perché spesso poi quando parliamo di cervelli in fuga spesso decollano cervelli e poi in altri paesi purtroppo atterrano braccia. Noi proviamo con questo progetto invece a far decollare cervelli, formazione in itinere e poi appunto far tornare maggiori competenze. Il concetto è molto semplice, ricorda appunto il cartellino Torno Subito sulle botteghe artigiane. Sì. Uscire, prendere un po' d'aria globale, apprendere quello che avviene nel mondo e poi assumersi la responsabilità per sé, per gli altri, anche per le proprie comunità, insieme ad un partner locale della nostra regione, di tornare e sperimentare e mettere, come dire, sul campo le cose che si sono apprese in giro per l'Europa e per il mondo. Certo, al centro ci sono storie di giovani, sono storie di studenti che scelgono, propongono di uscire, studiare, formarsi e rientrare. Come funziona questo primo step che avete celebrato con questa manifestazione lunedì e che punto era del progetto? Intanto abbiamo messo 500 ragazzi nelle condizioni di partire con soldi della programmazione europea 2007-2013 che erano già sul treno di ritorno per Bruxelles. Quando siamo arrivati abbiamo fatto un lavoro grande anche grazie a tanti funzionari pubblici, li abbiamo fermati, rilavorati e messi, diciamo, dentro questo primo pilota, questo primo progetto che, se andrà bene, parlerà circa da qui a 4 anni, alla fine della nostra legislatura, a 10.000 ragazzi con i nuovi fondi strutturali, quelli del 2014-2020. Sono belle storie, sono storie di ragazzi laureandi o laureati in architettura, in ingegneria, in economia, in materie umanistiche, un po' tutte le materie, ma più quelle tecniche. Questo mi ha colpito molto personalmente. E sono storie di innovazione che vanno dall'architetto che va a studiare i container a Berlino per farli diventare un'opportunità di rigenerazione urbana a scopo abitativo, all'ingegnere che va a studiare la dinamica e la meccanica degli orti urbani a Seattle, al medico che torna in Africa, medico diciamo di seconda generazione, dalla pelle scura, che torna in Africa per studiare delle profilassi a basso costo da mettere a disposizione delle comunità locali. Progetti belli perché mettono insieme una possibilità di futuro e di passione per questi ragazzi ma che hanno anche un occhio a, diciamo, al mondo, alle difficoltà che vive il nostro paese, e quindi anche una volontà di innovazione, di cambiamento molto, molto forte. Innovazione, appunto, cambiamenti, integrazione, passaggi culturali, perché veramente leggendo queste storie scopri quanto siano le competenze, quanto sia la creatività, quanto sia il coraggio, anche perché sono anche veramente storie di coraggio. Torno subito .laziodisu.it, il sito per conoscere il progetto nelle sue varie fasi. Grazie davvero Massimiliano, complimenti e in bocca grazie, al lupo per il proseguo del progetto. Salve. Grazie. Europostit. Tirocinio presso la Coalizione per la Corte Penale Internazionale. La Coalizione per la Corte Penale Internazionale raccoglie 2.500 organizzazioni della società civile in 150 differenti paesi che lavorano insieme alla Corte Penale. Il loro obiettivo è assicurare che la Corte sia giusta, efficace e indipendente, rendere la giustizia visibile ed universale, promuovere leggi nazionali più forti che rendano giustizia alle vittime di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Questo ente offre la possibilità di tirocinio all'interno dello Europe Regional Office a Bruxelles. I tirocini durano 4 mesi, cominciano il 1 settembre, e per candidarsi c'è tempo fino al 10 agosto. Per conoscere tutte le modalità andate sul sito iccnow.org nella sezione Employment. I'm gathering people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. E con Bob Dylan, appunto, annunciamo, ospitiamo il prossimo ospite, diamo il benvenuto a Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale Giovani. Continuiamo a parlare di giovani e di opportunità. Ciao Giacomo, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Un'altra tappa importante del vostro lavoro, l'Agenzia Nazionale per i Giovani ha appena pubblicato la graduatoria dei progetti approvati alla seconda scadenza del 2014, altri 267 progetti che si uniscono ai 118 del primo step. Giacomo, credo sia una bella soddisfazione intanto poter mettere sul piatto tutte queste opportunità. Assolutamente sì, in 6 mesi abbiamo già realizzato 2 round, 2 chiamate che hanno visto un'altissima partecipazione di progetti e quindi un coinvolgimento dei giovani che hanno ricaduto sul territorio, e abbiamo fatto un lavoro che ha liberato più di 5 milioni di euro, cifre che andranno direttamente ad associazioni, enti o enti locali che hanno presentato progetti che hanno passato il nostro vaglio e che sono qualcosa di concreto in favore dei più giovani. Giacomo, molte volte abbiamo detto che c'è un problema anche di informazione, un problema culturale, un problema di conoscenza sia della presenza di questa opportunità sia delle modalità di accesso. In questi mesi voi avete fatto un forte, fortissimo lavoro di informazione anche sul territorio. Sta pagando? Sì, questo sì, assolutamente. Noi abbiamo già realizzato diverse attività in questa direzione, circa una 30 di incontri in tutta Italia, dalle grandi città al più piccoli comuni, un rapporto più forte e costante con la stampa, con i social network, il nostro Facebook, il nostro Twitter, che invito tutti a venire a visitare, a seguire, sono costantemente aggiornati, e questo sta pagando, considerando che le risorse sbloccate sono appunto oltre 5 milioni, quasi vicini con 5 milioni e mezzo, e quindi come intorno ai 12 milioni assegnati per il 2014 all'Assemblea, quindi come in linea con metà anno abbiamo già liberato metà delle risorse a noi assegnate. Ovviamente c'è da migliorare, da fare di più, e sperando appunto di andare in questa direzione di fare meglio. È complicato raccontare l'Europa ai giovani? No, non è complicata, perché queste sono le generazioni che l'hanno, come ho detto in altre occasioni, non l'hanno soltanto studiata ma la conoscono direttamente. La generazione fa l'Erasmus, che conosce l'euro come solo una unica moneta in tasca, che capisce perché c'è una dimensione territoriale più larga del proprio, paese. Diventa complicato quando l'Europa rischia di essere soltanto problemi, vincoli e spread. In questo caso allora, c'è la percezione tra virgolette burocratica e non si coglie che insieme a tanti problemi ci sono anche tantissime risorse e opportunità. Certo, soprattutto per i più giovani. Assolutamente. Ad ottobre la scadenza, per la terza scadenza appunto per i prossimi progetti, so che non ci sono graduatorie di gradimento, non ci sono progetti più belli di altri. Ci puoi fare però qualche esempio per capire anche qui la creatività giovanile in che direzioni va? Sì, noi intanto ho fatto bene, ti ringrazio per aver ricordato che l'1 ottobre c'è la terza scadenza di quest'anno e ovviamente l'invito è esteso a tutti coloro che vogliono partecipare con un'idea progettuale. Ricordo, lo posso fare anche gruppi informali, quindi anche dai gruppi di ragazzi che non debbono essere necessariamente costituiti in associazione, quindi è molto facile e aperto a tutti. Le proposte che ci arrivano sono le più svariate, mi fa piacere segnalare che sono proposte che arrivano dalle regioni del nord e dalle regioni del sud, non c'è una regione che è mancata a questa alle call che abbiamo fatto e appunto sono progetti più svariati, dalla creatività giovanile a iniziative per i youth worker a attività di socializzazione. Come hai detto tu, senza, non c'è nessuna preferenza, ovviamente noi abbiamo costituito, mi fa piacere ricordarlo, un comitato di valutazione composto solo da esterni, okay. Quindi istituzionali esterni, quindi come in questo senso una massima trasparenza e valutazione dei progetti. E sicuramente ci sono alcuni progetti che ci aiutano a dare la cifra di quello che Agenzia Giovani fa o che tramite Agenzia Giovani si può fare, e ci sono progetti in particolare per le zone che coinvolgono i giovani che stanno nelle zone svantaggiate, sì, dei paesi del Mediterraneo, sì, e quindi questo è anche un meccanismo che cui obiettivi sono quelli di stimolare lo spirito di iniziativa e di autoimprenditorialità. Certo. E questo serve non soltanto a rafforzare appunto uno spirito di autoimprenditorialità, ma anche a mettersi in gioco e a fare delle cose utili anche sul versante del lavoro, quindi con delle ricadute in questo settore. E poi c'è, per esempio, ci sono altri progetti sulle nuove tecnologie e sull'uso consapevole delle nuove tecnologie. Oggi ci sono tantissimi problemi che nascono in rete, sull'uso delle nuove tecnologie e anche come queste possono diventare delle occasioni lavorative. In questo senso mi piace ricordare che moltissime le iniziative che nascono come progetti poi diventano lavoro, in molti casi diventano lavoro, e quindi quell'occasione di occupabilità che abbiamo cercato viene poi centrata. Agenziagiovani.it è il sito per conoscere tutte le attività e poi le pagine in Twitter e in Facebook, continuamente aggiornate. Un grazie davvero a Giacomo D'Arrigo. Giacomo, grazie a te e a tutto il tuo staff. Bene, grazie a voi, grazie alle 24. L'invito che hai fatto tu di venirci a seguire sul sito e sui nostri social, e spero che alla ripresa ci sia la possibilità di raccontare il nostro report su quello che abbiamo fatto già in questi primi 8 mesi, perché saranno 8 mesi a settembre. Assolutamente sì, saremo qua. Grazie davvero, ciao, buona estate. Grazie a te, buona giornata. Un Aeropostit e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Generation Awake a Caorle. La campagna Generation Awake sbarca sulle spiagge d'Europa per sensibilizzare i giovani contro lo spreco a favore di una corretta raccolta differenziata. In Italia arriva a Caorle, provincia di Venezia, dove dal 9 agosto ci sarà una mostra, delle giornate di animazione e un incontro con i personaggi del cartoon di Generation Awake. Siete all'estero? Generation Awake arriva anche in Grecia e in Bulgaria. Volete saperne di più? Andate sulla pagina Facebook della campagna, facebook.com/Generation Awake. L'altra Europa. Un albero che vive in mezzo agli alberi, mi sento quando giro per il mondo, cerco di far sì che il vento non mi butti giù e di affondare le mie radici nel profondo. Prendo il sole in faccia per far sì che le mie foglie siano ben appiccicate lungo questi rami, ospito tra le mie braccia nidi di uccellini e do rifugio nel mio fusto a molti sciami. proprio come un albero mi spoglie mi ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa, Euronet Plus, R24, oppure il mio account personale @ Federico Taddia, per trovarci su Twitter e su Facebook, oppure radio24.it, il nostro sito da dove poter scaricare poi la puntata e ritrovare anche tutti gli europosti, le nostre segnalazioni di opportunità e possibilità in giro per l'Europa. Lui è Giovanotti, questo è l'albero. Perché? Perché vi andiamo a raccontare una storia di creatività, una storia di innovazione, una storia di giovani anche, parole che sono tornate più volte in questa puntata dell'altra Europa. E qui oggi parliamo proprio di eccellenza, un'eccellenza italiana, un'eccellenza che si sta alimentando e sta crescendo anche grazie ai finanziamenti europei, ai finanziamenti della Commissione Europea. E al centro di tutto ciò c'è non un albero, ma una pianta che in verità non è una pianta perché è un robot che tanto assomiglia a una pianta e si chiama Plantoide. Per capire di cosa si tratta c'è con noi Barbara Mazzolai, coordinatrice del progetto Plantoide e coordinatrice del centro di microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Barbara, insomma, ci conosciamo anche personalmente, quindi posso dire ciao Barbara. Ciao Federico. Che solitamente faccio tutte, faccio queste premesse e poi dico ciao, no? Come se stessi parlando con la mia vicina di casa, che a volte anche sì, ciao. Un piacere mio, grazie intanto per aver accettato l'invito. Sì. Allora Barbara, cerchiamo di definire questa parola, plantoide, che è facile, una pianta robotica, ma in verità di cosa si tratta? Allora, si tratta innanzitutto di un progetto europeo, sì, quindi è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di questo programma che si chiama Set Open, e ha appunto come obiettivo quello di realizzare un robot per la prima volta a livello mondiale ispirato alle piante e in particolare alle radici delle piante per il monitoraggio del suolo e per l'esplorazione. Mm-hmm. Quindi, dimmi. No, prego, scusami. Quindi quello che noi facciamo è studiare, partiamo proprio dal modello biologico e vediamo quali sono le strategie che le radici mettono in atto per penetrare in un ambiente così difficile e complesso come quello del suolo, perché devono muoversi in pressioni molto elevate, un continuo attrito perché le particelle del suolo strusciano appunto sulla radice, e quindi mettono in atto tutta una serie di movimenti perché si muovono in maniera molto efficiente e di strategie di penetrazione che noi andiamo a imitare. Certo. Per realizzare il nostro robot che si muove esattamente nello stesso ambiente. E quindi ad esempio le radici crescono per aggiunta di materiale, nuove cellule a livello della punta, cioè dell'apice, non la parte vicino al fusto, al tronco come ci potremmo aspettare, ma in realtà a livello dell'apice, perché in questo modo crescendo l'unica parte che spingono è proprio diciamo la punta, e quindi riducono la pressione e poi emettono sempre muco in cellule morte che crea una sorta di interfaccia, e anche questo aiuta la radice a muoversi nel suolo. Il nostro robot, dovendo affrontare le stesse problematiche fisiche, lo stesso ambiente, si muove analogamente, quindi aggiunge materiale, nuovo materiale, per deposizione in questo caso di materiale artificiale e non di cellule, sempre a livello della punta. E quindi anche nel nostro caso l'unica parte che si muove nel suolo è il nostro apice robotico. Barbara, scusa se ti interrompo, diciamo che appunto i partner insieme all'Istituto Italiano di Tecnologia, cioè l'Università degli Studi di Firenze, l'Istituto di Bioingegneria della Catalogna, la Scuola Politecnica Federale di Losanna in Svizzera, e poi questi finanziamenti che tu hai citato, come li avete convinti? Nel senso, quali sono le potenzialità di questo progetto che avete sottolineato e che avete espresso? Perché credo che sia un qualcosa che vada al di là della pura ricerca, della pura sperimentazione fine a se stessa. Il processo è molto complesso e selettivo, perché noi abbiamo preparato una proposta insieme ai partner che hai menzionato, e questa proposta viene valutata da un panel di esperti che giudicano positivamente o negativamente il tuo lavoro, no? Quindi diciamo il fatto di avere un finanziamento da parte della Commissione Europea, al di là appunto del finanziamento, la cosa interessante è proprio che in un certo senso il tuo lavoro è stato giudicato, sì, è stato valutato positivamente dalla comunità, no? Quindi ti presenti già con un valore aggiunto, perché in realtà c'è già stato un processo di valutazione, e poi il fatto di vivere in un ambiente comunitario, quindi avere un progetto finanziato dalla Commissione Europea, è estremamente importante, perché hai la possibilità di creare nuove comunità scientifiche, ma è importante anche per i giovani che appunto menzionavi, perché si trovano esposti a delle grandi sfide, come quelle appunto di realizzare un robot, in questo caso ispirato alle radici, e di vivere in un contesto internazionale, quindi di confrontarsi con i suoi coetanei, no? Di che vengono da nazioni diverse, parlano in inglese, cioè devono anche capire discipline diverse, no? Quindi è una piattaforma anche di conoscenza, ma anche di crescita professionale per loro e per tutti, diciamo. Certo. Tu stessa sei giovanissima, però è caratteristica di tutto l'Istituto Italiano di Tecnologia, veramente, sì, questa contaminazione di tanti cervelli, tante nazionalità, sì, è uno dei forti valori aggiunti della vostra realtà. Barbara, il progetto terminerà, questa fase del progetto mi sembra nel 2015, se non erro. Esatto, aprile 2015. Sì. Qual è l'obiettivo, il sogno nel cassetto? Vorreste arrivare ad aprile 2015 con cosa? Vorremmo arrivare ovviamente ad avere una piattaforma, perché è una piattaforma di tecnologia. Le sfide che dobbiamo affrontare in questo progetto sono veramente tante, non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche biologico, anche scientifico, perché molti degli aspetti, soprattutto comportamentali, delle piante non sono conosciute. Quindi noi non soltanto sviluppiamo tecnologia, ma abbiamo appunto anche un gruppo che è all'Università di Firenze, ma noi stessi all'interno dell'istituto lavoriamo sulle piante per cercare di capire come si comportano, per esempio quando sono sottoposte a tutti questi stimoli ambientali che ricevono, e quali sono le strategie che poi mettono in atto per essere più efficienti nell'esplorazione. Quindi diciamo, questo progetto e questo programma che è Asset Open ci consente di unire la scienza e la tecnologia. Quindi l'obiettivo è proprio quello di creare anche delle comunità nuove in cui gli scienziati, i biologi, ma non solo, si parlano con gli ingegneri, certo, con i fisici, i chimici, no? Quindi con comunità totalmente diverse. E, insomma, questa unione tra scienza, tecnologia e innovazione è fantascienza anche, no? Perché molte cose, cioè, per noi non addetti ai lavori, è facile con la fantasia scivolare in quell'ambito. Poi c'è anche una parte poetica, comunque una parte anche di amore verso la natura. Tu per esempio sei biologa, cioè la tua formazione. Io sono biologa, sì. Io sono un ibrido, diciamo, un incrocio tra la biologia e appunto l'ingegneria, quindi questi progetti per me sono veramente importanti, perché mi consentono di unire due amori, di fatto, due passioni. Non hai mai innaffiato un plantoide, però? Ancora no, ma io confido nel fatto di realizzare delle radici, delle piante robotiche, con quelle naturali non ho un grande feeling. E solitamente quando Barbara dice confido di realizzare questa cosa, alla fine ce la fa, quindi insomma è solo questione di tempo. Grazie davvero Barbara, complimenti a te e a tutto il tuo staff. Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi. Ciao e buona estate. Ciao Federico, anche a te, grazie a tutti. Europost-it. Concorso per creativi da Europeana. Europeana Creative è un progetto europeo che promuove il riutilizzo delle risorse culturali attraverso l'industria culturale europea. Ed ora sta cercando creativi, designer, start-upper e chiunque voglia utilizzare il patrimonio culturale europeo digitalizzato nella biblioteca virtuale europeana in modi nuovi e creativi. Le nuove sfide sono di utilizzare i contenuti di Europeana, immagini, testi, ma anche suoni e video, nei temi del turismo e nei social network. Il premio? Un Incubation Support Package, un pacchetto completo con esperti, tecnici, assistenti e facilitazioni per portare poi la propria idea sul mercato e farla diventare un prodotto vendibile e di successo. Volete capire meglio come fare e avere spunti dove trarre l'ispirazione? Visitate il portale di Europeana Labs, labs.europeana.eu, e poi andate su Europeana Creative, europeanacreative.eu, dove trovate anche tutte le informazioni sul concorso. Attenzione, scade il 28 agosto. The European Union is made up of three big houses, the Commission, the Council of the EU and the European Council, and then there's the Parliament. This is the People's House. The 500 million European citizens it represents elect directly the members. Quello che state ascoltando è un video di spiegazione sul funzionamento delle istituzioni europee, perché sì, parliamo un po' di istituzioni, lo sapete, no? Siamo nel pieno del semestre europeo a guida italiana, se ne è parlato tanto poche settimane fa, ora è un po' tutto finito già nel dimenticatoio, vuoi perché la cronaca politica ci porta altrove, un po' perché siamo fatti anche così. C'è per fortuna invece chi tiene le antenne sollevate, ha scelto di guardarlo con attenzione, con occhio critico, occhio tecnico, questo semestre europeo. Si chiama Europei, è l'osservatorio permanente dei semestri di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, istituito all'Università degli Studi di Teramo, proprio con l'obiettivo di analizzare in modo permanente i semestri di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Tutto ciò è coordinato dal professor Pietro Gargiulo, professore di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. Buongiorno Pietro, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta, ovviamente. Le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da lei. L'Altra Europa. Eccoci qua di nuovo all'Altra Europa, con noi il professor Pietro Gargiulo, coordinatore dell'Osservatorio Europei. Professore, di cosa si tratta e da che esigenza nasce? Guardi, la cosa è in effetti molto semplice. L'iniziativa è stata promossa dal rettore D'Amico e dal preside di Scienze Politiche del Colle, con l'intento seguire, come lei diceva, con costanza l'attività di integrazione nell'Unione Europea. Sì. Punto di riferimento il Consiglio dell'Unione Europea, punto di riferimento principale, quindi non esclusivo, perché resta un po' il centro del processo politico decisionale all'interno dell'Unione. Ovviamente il rapporto con la Commissione e con il Parlamento europeo, insomma, per noi è un punto di riferimento essenziale, perché noi seguiamo in realtà il gruppo di lavoro, che è fatto di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e soprattutto studenti senior della nostra università, segue la preparazione, lo svolgimento e gli esiti delle riunioni del Consiglio, pubblicando sul nostro sito notizie, commenti, analisi, raccolte di documentazione e quant'altro possa essere utile per seguire l'integrazione nell'Unione. Quali sono le fonti delle vostre analisi? Prendete i documenti ufficiali? Assolutamente sì, il nostro punto di riferimento sono i documenti ufficiali prodotti dalle istituzioni, siano essi documenti di preparazione delle normative, ma le stesse normative quando poi vengono adottate, insomma. L'intento soprattutto è quello di fare qualche cosa di utile per destinatari molteplici, perché l'attività dell'Unione oramai è entrata in tutti i campi di interesse del nostro paese, ma direi dei paesi che fanno parte della Unione, e quindi nel nostro caso principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali, la regione, i comuni, le rappresentanze del mondo economico e sociale, il mondo dell'informazione, inteso in senso lato, carta stampata, ma anche radio, televisioni, e ovviamente senza escludere i giovani e quindi le università, le scuole soprattutto. Certo, insomma un lavoro dettagliato, grazie davvero. Il sito è europeiunite.eu, sito aggiornatissimo, vi consiglio veramente di frequentarlo, perché può essere un ottimo punto di riferimento, un faro ben fatto, equilibrato e oggettivo dei prossimi sei mesi. Gargiulo, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa nel corso di questo semestre. Grazie davvero e buona estate. Grazie a voi. Europost-it. Forum Tradurre l'Europa. Il Direttorato Generale della Traduzione della Commissione Europea organizza il forum Tradurre l'Europa il 18 e 19 settembre a Bruxelles, con lo scopo di mettere in contatto tutti i soggetti legati al mondo della traduzione, università, industria linguistica, servizi di traduzione, associazioni professionali, eccetera, per realizzare progetti, collaborazioni e cercare di creare una comunità di persone interessate e legate al tema della traduzione. Verranno organizzati anche forum nei singoli paesi e la conferenza si potrà anche seguire in web streaming. Se siete interessati a partecipare, avete tempo fino al 31 agosto per registrarvi. Trovate le informazioni sulla pagina del Direttorato Generale Traduzione cercando Translating Europe. ec.europa.eu/dgs/translation/programs/translating_europe. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Botta di romanticismo qui all'Alta Europa con questa sorta di dichiarazione d'amore a Bruxelles. Vediamo se anche per i ragazzi spagnoli è una storia d'amore quella con Bruxelles. Lo facciamo grazie a un bel articolo pubblicato su Café Babel da Gaia Proiti, intitolato Il talento dei giovani spagnoli raggiunge Bruxelles per raccontare ancora una storia di creatività e innovazione. Gaia è qua con noi. Ciao Gaia. Ciao Federico, come va? Molto bene, grazie. Spero di aver pronunciato bene il tuo cognome. Proiti, perfetto, avevo il 50% di possibilità di sbagliare e non ce l'ho fatta. Va bene così. Tu sei traduttrice volontaria a Café Babel, vivi a Bruxelles, dove stai seguendo, se non erro, uno stage all'interno del programma Leonardo, Leonardo a tema Europrogettazione. Esatto, è un programma organizzato dal Collegio Europeo di Parma insieme alla Fondazione Belga Finnovarecchio. Sì. E ci occupiamo di progettazione europea, in particolar modo di diffusione di progetti europei per i giovani imprenditori, i giovani ragazzi che vogliono formarsi in progettazione europea. Uh-huh. E lì hai raccontato questa storia in salsa spagnola, diciamo, di cosa sì. si tratta? Esattamente, allora è la storia di quattro ragazzi, giovani imprenditori spagnoli che ho conosciuto appunto a Finnovarecchio e che sono arrivati a Bruxelles grazie al programma EU Startup Accelerator, che si tratta del primo acceleratore di startup con base a Bruxelles. È stato organizzato e lanciato da Finnovarecchio in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spagnolo. E questi ragazzi hanno avuto l'occasione di poter trascorrere del tempo a Bruxelles ricevendo una formazione in lobbying, mentoring, business to business, networking, e hanno avuto anche un grande appoggio per poter internazionalizzare i loro progetti. Come ho raccontato nell'articolo, ci sono quattro storie interessanti. La prima è di MoveCare, un progetto di due ragazzi asturiani che hanno inventato un triciclo che può essere spostato attraverso leve e pedali in modo abbastanza agevole. Sì. E può essere utilizzato da chiunque, sia persone insomma con discapacità fisiche a mobilità ridotte, oppure da chiunque, da giovani, persone anziane, eccetera. Poi ho incontrato Fausto con il suo progetto Camaway di piattaforma e-learning, che tra l'altro era un suo progetto di tesi, quindi che è stato poi realizzato, messo in pratica grazie ai fondi che ha ricevuto, ed è stata la prima piattaforma e-learning registrata nel registro trasparenza dell'Unione Europea. Ho capito. Ho conosciuto Lorena di Rai Musgo, che ha creato una collezione femminile di scarpe ecosostenibili, quindi ha cercato di coniugare la qualità, il design e la comodità per le scarpe. E infine Inigo di European Help Pack, che ha creato un'organizzazione intermediaria per aiutare tutti coloro che arrivano a Bruxelles per fare uno stage di studio o dei tirocini, per poter trovare per esempio alloggio, sbrigare le pratiche amministrative dei primi giorni, orientarsi in una città tanto grande come Bruxelles, che comunque offre insomma parecchie opportunità. Certo, Gaia, ma il fatto che fossero spagnoli era una sfumatura, era un dettaglio, potevano essere storie di qualsiasi altro stato delle 28 nazioni membre, o hai trovato un filo conduttore, un qualcosa di caratteristico? Il fatto che l'EU Startup Accelerator sia sponsorizzato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali spagnolo, uh-huh, e da altre anche organizzazioni spagnole, quindi credo che il filo conduttore sia appunto questo. Certo. Però diciamo che comunque questi giovani imprenditori poi vogliono rimanere, credo che alcuni di loro stiano proprio rimanendo a Bruxelles tramite il programma Erasmus Giovani Imprenditori, che comunque è aperto a tutti. Quindi diciamo che hanno avuto il primo appiglio, il primo aggancio grazie allo Startup Accelerator, e poi stanno continuando insomma a costruire i loro sogni attraverso altri tipi di programmi di finanziamento che possono utilizzare per poter realizzare i loro progetti. Gaia, la tua scelta di fare la volontaria a Café Babel, i tuoi studi, la tua formazione, lo stage che stai facendo ora, sì, come mai hai scelto di fare dell'Europa un pezzo importante della tua vita? Tutto è iniziato con l'Erasmus, sì, penso che tutti iniziamo da questo punto di partenza. E da brava laureata in lingue ho iniziato a sviluppare pian piano questa passione che mi ha portato ad essere eurofila. Sì, E quindi piano piano sto cercando un po' di costruire la mia vita, il mio futuro sotto questo punto di vista, che possa coniugare un po' lingue, Europa, progettazione europea, traduzione. Quindi l'Europa come speranza, come possibilità, come opportunità, sì, che sono un po' i filoni. Sicuramente che... come un'opportunità da sfruttare, come una realtà da vivere più che altro. Si parla tanto di Europa, ma spesso i giovani non, tra virgolette, non praticano l'Europa, non conoscono spesso i programmi di progetti che ci sono e che vengono offerti. Okay. Quindi sì, sicuramente se posso dare un consiglio nel mio piccolo è quello di... essere un po'. Esatto. No, questa è bella, essere europeisti praticanti. Grazie davvero, esatto, Gaia Proiti. Su Café Babel potete trovarla. Questo grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie alla squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Carmelo Lauricella, oggi alla parte tecnica. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.